Ed eccolo lì, Herr Dremmel, che del vescovo non si lasciava incutere il minimo timore, neppure in relazione a un'impresa titanica come chiedergli la mano della figlia. Vi era qualcosa di sublime in quel distacco. Sentiva scaturirne un'immensa libertà che le soffiava sul viso come aria fresca, salmastra. Herr Dremmel, invece, non aveva bisogno di alcuna barriera protettiva. Era la persona più incurante delle convenzioni sociali che lei avesse mai incontrato. Non gli importava nulla dell'opinione altrui, che invece rappresentava il crucio principale di casa sua, ed era orfano. Triste, pensò Ingeborg sospirando, essere orfano. Triste non avere più nessuno dei propri cari. Le sembrava però una condizione che, se non altro, presentava il vantaggio di non dover essere messi di fronte al dilemma, le cui alternative erano dissimulare la verità, ricorrendo a gradazioni di menzogna, oppure affrontare quella condizione miserevole, viatica, di sudori freddi, che derivava dal dover prendere il coraggio a due mani e confessare la verità. Naturalmente, Herr Dremmel non conosceva il padre di Ingeborg, non aveva mai avuto modo di fronteggiare quella personalità imponente, ma nel momento in cui fosse successo, sarebbe stato ugualmente distaccato e indifferente? Rabbrividendo, pensò solo per il gusto di formulare una supposizione a come si sarebbe svolto quell'incontro qualora lei avesse acconsentito al fidanzamento. Nelle stanze, dallo splendore attentamente smorzato, rivestite da pannelli in legno pregiato e movimentate da bovindi, Herr Dremmel le sarebbe sembrato altrettanto disinvolto e piacevole come in quell'escursione condotta fra ambienti frugali. Sarebbe stata capace di continuare a vederlo nella stessa luce, anche di fronte all'inorridita disapprovazione del vescovo. Non aveva ancora percorso distanze ragguardevoli nell'esplorazione delle proprie risorse, ma ultimamente aveva iniziato a credere di essere un po' troppo remissiva. Lo trovava deplorevole, ma sentiva che la tendenza a lasciarsi sottomettere facilmente e il più delle volte a imboccare la direzione auspicata dalle persone che le stavano a fianco e che esercitavano su di lei la propria influenza era una peculiare caratteristica. Vero che era anche capace di allontanarsi con un balzo non appena la stretta si allentava, come sorprendentemente aveva scoperto a Londra, ma sembrava che i suoi balzi sortissero effetti gravidi solo di conseguenze penose. E dato che il suo addestramento alla più totale acquiescenza e disistima di sé era ormai stato portato a compimento, come poteva sperare che una volta a casa non avrebbe assunto per l'ennesima volta quell'avvilente postura a testa china? Che di fronte a suo padre sarebbe riuscita a dissociarsi dalle opinioni che lui avrebbe espresso. Sapeva fin troppo bene quale sarebbe stato il giudizio del vescovo riguardo a Herr Dremmel. Voleva davvero dissociarsene? Spinse all'indietro la sedia e prese a camminare in lungo e largo per la stanza angusta. Dissociarsene avrebbe necessariamente significato il matrimonio, un matrimonio del genere costituiva una chiara sfida a tutto il suo mondo. La comunità di Rochester sarebbe inorridita. La diocesi si sarebbe messa in gramaglie per il suo vescovo. All'ora del tè Ingeborg sarebbe stata l'oggetto di innumerevoli dispute attorno a centinaia di tavoli. E lei dove sarebbe stata mentre tutto ciò avveniva? Sentì il proprio sangue accelerare la corsa. Come era già accaduto a Londra, si sentiva in preda allo sconfinato desiderio di scrollarsi di dosso tutto e tutti e di voltarsi in direzione di ciò che era completamente nuovo. Mentre tutte queste persone se ne stavano ad annuire malignamente, a bisbigliare nel loro mondo saturo di quell'atmosfera soffocante e stantia, e sarebbe stata in salvo nella Prussia orientale, un luogo che sembrava lontano anni luce, un luogo che Herr Dremmel avrebbe descritto come pieno di foreste, corsi d'acqua e immensi campi di segale. Là, le rive dei laghi erano orlate di giunchi e lambite dalla foresta. Inoltre il giardino di casa sua terminava in un viottolo che si apriva un varco attraverso una specie di lilà e che conduceva giù, tra i campi di segale fino ai giunchi, all'acqua e ai primi imponenti alberi di pino. Oh, come lo conosceva bene ormai, proprio come se l'avesse visto di persona. Quante volte infatti l'aveva indotto a descriverlo? Di certo lui non lo considerava un luogo eccelso, anzi ne parlava con disgusto definendolo un posto dimenticato da Dio. Bene, era proprio uno di quei luoghi dimenticati da Dio a cui anelavano ora il suo corpo e la sua anima. Spazi aperti, libertà, quiete, il vento che increspava i campi di avena, il placido sciabordio dell'acqua contro lo scafo del barchino. Dai suoi racconti aveva vinto che ve n'era uno. Il crescendo del canto delle allodole all'alba, le nuvole luminose che attraversavano pigre il cielo azzurro. Dopo gli anni di assordante trambusto trascorsi a Redchester, voleva restar sola con tutto questo. Sentiva quel desiderio albergarle in seno, una sensazione pungente come la nostalgia. Le pareva di ricordare che in qualche modo in passato era già stata in compagnia di quegli elementi. Tanto tempo fa, lontano. Forse era caduto quando da piccola se ne stava sull'erba, pancia in giù, beandosi della presenza di tutte quelle piccole cose deliziose che profumavano di buono. Le foglie delle fragole di bosco e una pianticella aromatica dai fiori bianchi a forma di stella che se veniva sfregata fra le dita. Rimase un attimo immobile, accigliata, tentando di rievocare altre immagini. Non era in Inghilterra. Ma mentre tentava di concentrarsi ancora di più, la visione scivolò via, lontano dalla sua mente. Aveva voglia di leggere, di camminare, di pensare. In particolare desiderava leggere i libri che più l'incuriosivano, camminare verso una meta da lei stabilita e pensare esattamente ciò che le passava per la testa. Possibile che l'anno cristiano bastasse a formare il proprio bagaglio in materia di poesia? E tutti quei romanzi che sua madre le dava da leggere, inframmezzati da biografie di sempre nuovi vescovi e piccoli libri di conforto spirituale recanti croci sulla copertina, che ponevano domande impertinenti, come ad esempio se nel corso della giornata si era stati egoisti o generosi. Oppure ancora se si erano pronunciate parole a doppio senso. Quelle letture si sarebbero rivelate sufficienti a un'anima che in totale solitudine, senza un padre a mostrarle la via, avrebbe dovuto di lì a poco rivolgersi al suo personale Dio? La sua famiglia nutriva la più ferma convinzione che per una ragazza la lettura durante il giorno equivalesse alla pigrizia. Beh, se le cose stavano così, pensò Ingeborg, sollevando il capo, resa più ardita dalla distanza da casa. Quel capo che in famiglia era così avvezzo a chinarsi in modo apologetico, allora l'essere pigri era una cosa benedetta e tanto prima fosse riuscita ad andarsene, tanto più a lungo avrebbe potuto, indisturbata, vivere pigramente dopo. In quella canonica sperduta nella Prussia orientale avrebbe potuto leggere all'infinito. Herr Dremmer le aveva spiegato almeno 100 volte di quel suo laboratorio, di come se ne stava chiuso dentro e del suo unico desiderio, quello di esservi lasciato in pace. Doveva certamente trattarsi di una qualità ammirevole in un marito, quella di starsene sempre chiuso in un laboratorio. E la canonica si trovava ai confini del villaggio, con il piccolo giardino sul retro e nulla che separasse quest'ultimo dal tramonto e da tutte le altre cose dilette che Dio aveva creato, se non un mulino solitario in disuso da tempo. Era circa l'una di notte, comunque, quando il coraggio di fronte alla prospettiva di tornare a casa le venne meno. Come sarebbe stato il rientro nella sua vita filiale, con tutti loro che da quel momento in poi l'avrebbero considerata macchiata nell'onore? Sarebbe stata come un figlio prodigo per il quale nessun vitello grasso sarebbe stato sacrificato, che si sarebbe visto offrire non le vivande più prelibate, prerogativa di un'età più matura, ma la spaventevole opportunità di spiegare la sua condotta a un padre che avrebbe interrotta per mettersi lui stesso a spiegare. Come avrebbe potuto affrontare tutto da sola? Solo fosse stata innamorata di Herr Dremmel. Se fosse entrata in casa con lui, mano nella mano, con quale diversa dose di coraggio allora avrebbe affrontato la sua famiglia? Se solo lui fosse stato più somigliante agli amanti raffiguranti nelle immagini, come ad esempio nel dipinto I legittimi sposi di Leighton, un quadro bellissimo. Pensò Ingeborg, il cui soggetto non era però affatto somigliante agli sposi residenti a Redchester, in modo tale che, pur non essendone innamorata, potesse quantomeno convincersi di esserlo. Se almeno avesse avuto dei capelli veri e propri, invece che una pelliccia di castoro. Era simpatico, sì, e talvolta quella simpatia si era spinta fino al punto di provare gioia nel conversare con lui, ma addirittura il matrimonio. E poi, che cos'era esattamente il matrimonio? E perché a casa non se ne parlava mai? A casa, nel palazzo del vescovo, era un argomento totalmente proibito che avrebbe potuto benissimo essere uno dei 7 peccati capitali. Talvolta si parlava di coniugi e talaltra con riserva del sacramento matrimoniale, ma il matrimonio vero e proprio, il suo vero significato, erano argomenti che non venivano mai sfiorati. A causa di quei silenzi, aveva avuto l'impressione che nonostante quel sacramento fosse dettato da un'ordinanza divina, come suo padre amava reiterare nell'esercizio delle sue funzioni, specie mentre officiava un matrimonio, si si trattasse però di una norma imposta con riluttanza, quasi fosse stata stabilita perché non vi erano altri modi per aggirare quello che prova essere un problema spinoso. Ma in che cosa consisteva la difficoltà? Durante la sua vita sempre molto impegnata non ci aveva mai pensato. Il matrimonio non era stata cosa che la riguardasse. Adottando inconsciamente l'atteggiamento proprio del suo ambiente, sentiva che non sarebbe stato appropriato per una ragazza che non avesse in vista il matrimonio pensarci troppo di frequente. E in effetti non le interessava proprio. Ecco perché le era sempre venuto naturale distoglierne lo sguardo. Ma ora, il problema di dover fronteggiare il padre, il bisogno che qualcuno le desse sostegno e il desiderio di rifuggire da quelle questioni, la obbligarono a mettere a fuoco la situazione. Inoltre, il mattino successivo avrebbe dovuto dare a Erdrämmel una risposta di sorta. Anche fronteggiare Erdrämmel richiedeva una certa dose di coraggio, di diverso tipo, ma indubbiamente coraggio. Per carattere era parecchio restia ad addolorare o deludere il prossimo, per tutta la vita dare alle persone ciò che desideravano, farle sorridere, renderle felici le era sembrato il piacere più grande. E se Erdrämmel, prima che lei lo facesse sorridere o lo rendesse felice, avesse tentato di afferrarla di nuovo come era accaduto sulla cima del Righi. L'episodio l'aveva profondamente infastidita. Allora aveva potuto risentirsi e si era liberata, ma qualora si fossero sposati e lui l'avesse avviluppata, avrebbe potuto ugualmente ribellarsi? Temeva fortemente di no. Nutriva un inquietante sospetto, ora che analizzava la faccenda con calma, e cioè che il problema intrinseco ai matrimoni fosse proprio quello. Non era altro che una serie ininterrotta di strette. Evidentemente anche suo padre doveva essere giunto a quella considerazione e molto opportunamente disapprovava. Del resto non ci si poteva certo aspettare altrimenti. Ecco perché non desiderava parlarne. In questo senso era completamente d'accordo con lui, ma forse anche a Erdrämmel non piaceva. Non stava forse saltando un po' troppo precipitosamente alle conclusioni, immaginando che a lui piacesse, e poi tutto sommato non l'aveva forse afferrata in un impeto di rabbia più che di altro sentimento. E come spiegare il suo desiderio così intenso, come lui stesso aveva sovente ribadito, di starsene chiuso tutto il giorno nel suo laboratorio? E che dire poi dell'elogio pronunciato nel pomeriggio a favore del freddo nei rapporti interpersonali? In quel momento il suo sguardo fu catturato da qualcosa di bianco che appariva lentamente e con difficoltà da sotto la porta. Sedette ben dritta, fissandolo, osservandone gli sforzi per superare il bordo dello stuoino. Per un attimo si chiese se per caso non si trattasse di una sorta di piccolo fantasma, ma poi si accorse, man mano che ne appariva una porzione sempre più consistente, trattarsi di una lettera. Ingeborg trattenne il respiro mentre l'oggetto si guadagnava a fatica l'ingresso nella camera. Nessuno prima d'ora aveva mai infilato nulla sotto la porta della sua stanza. Ne fu immediatamente felice, molto divertente. Mentre attendeva di sentire i passi disperdersi in lontananza prima di alzarsi a raccoglierla, sentì il suo cuore affrettare i battiti per l'emozione. Non riuscendo a udire nulla, deduse che Herr Dremel doveva necessariamente indossare le sue galosce, dalle quali raramente si separava. Dopo pochi istanti di ascolto e rapida trepidazione, si alzò, raggiunse la lettera in punta di piedi e con grandissima cautela la raccolse. Beh, pensò, soffermandosi un istante con una certa solennità prima di aprirla, credo che questa sia la mia prima lettera d'amore. Non vi era scritto nulla sulla busta, né firma in calce al testo. Piccola, desidero informarti che questa sera, prima di ritirarmi nella mia stanza, ho dato istruzioni al portiere affinché ordinasse una torta di fidanzamento, ricoperta dalla tradizionale glassa e decorata con foglie argentate come d'uso, che sia pronta nel saloncino adiacente alla sala da fumo domattina alle 9. Poiché nessun uomo può fidanzarsi da solo, è assolutamente necessaria la tua presenza. Capitolo 6. Data la comparsa di un elevato numero di soggetti, il fidanzamento risultò essere un evento alquanto perturbato. Il mattino successivo, alle 9 in punto, altre 7 signore, oltre a Ingeborg, apparvero nel saloncino adiacente alla sala da fumo. Dopo laboriose lucubrazioni, Herr Dremmel, ignorando quale fosse la camera di Ingeborg e ritenendo che chiederne il numero al portiere dopo il tramonto potesse verosimilmente gettare un'ombra sulla reputazione della ragazza, sapendo bene che erano proprio le giovani donne le più facili vittime della calunnia, aveva scritto un numero di copie della lettera in questione equivalente al numero di porte che si trovavano sul pianerottolo dove era ubicata anche quella di Ingeborg, e diligentemente aveva infilato una copia sotto ogni porta, sapendo che in tal modo lei non avrebbe potuto fare a meno di riceverla. Era molto compiaciuto del suo piano, che gli sembrava estremamente semplice ed efficace. Essendo estranea al contesto, aveva ragionato, nessuna signora, ad eccezione della diretta interessata, si sentirà chiamata in causa. Pertanto, pensando che la missiva sia stata erroneamente recapitata, la getterà via non pensandoci più. Ma le signore ci pensarono. E nessuno degli occupanti del terzo piano la gettò via, tranne Mr. Ashok, che non pensava mai niente di niente, avendo scoperto che una volta dato inizio a un processo di riflessione risultava poi praticamente impossibile porvi termine, e tranne un ometto dall'aspetto segaligno, un ex impiegato in pensione al suo primo viaggio sul continente, che versava in una condizione di profondo disinteresse verso tutto ciò che lo circondava. Questi due lo fecero, ma le sette signore non solo non gettarono via la lettera, ma la lessero più volte e invece di non pensarvi più, presero a non pensare ad altro. Persino Mrs. Bone, vedova da 6 mesi e già stanca di quella condizione, se ne rallegrò di cuore. Ciò che più le piaceva era l'appellativo piccola con il quale l'autore della lettera le si rivolgeva. Vi era una sorta di cecità in tale nomignolo che suggeriva l'idea di un sentimento genuino. Non si era sentita così compiaciuta da quando il suo caro Bone, buonanima, le aveva detto una volta prima del loro matrimonio che a lui non interessava ciò che diceva la gente. Per lui lei era bella e tanto bastava. Tutte ritennero che la lettera sprigionasse una forte virilità, ma che nulla potesse essere più distinto del suo tono misurato. Quattro di loro si aspettavano di incontrare nel saloncino un diverso rappresentante di sesso maschile della comitiva. Le rimanenti tre erano convinte si trattasse di Mr. Ashok, i cui modi sdolcinati nell'accompagnare le porte di carrozze strapiene l'aveva spesso reso in passato, in occasione di queste escursioni, vittima di malintesi. Era già sposato da molto tempo, ma non si era ancora premurato di rivelarlo. Le signore, quindi, arrivando nel saloncino alle 9, non trovarono Mr. Ashok né nessuno degli altri quattro amici che attendevano. Trovarono, con grande sorpresa, loro stesse, e vicino a una tavola imbandita presso la finestra, tirato a lustro e sempre più accigliato man mano che la porta si apriva per ammettere nel locale una nuova signora, quell'indesiderabile compagno di viaggio, il gentiluomo tedesco. Tutte intuirono immediatamente chi fosse la destinataria della missiva e altresì che la lettera, essendo stata erroneamente recapitata, non aveva raggiunto Miss Bullivan, che pertanto non sarebbe apparsa. Ma ognuna, eccetto Mrs. Bone, riuscì a nascondere la propria sorpresa, traendo conforto dal fatto che le altre non erano a conoscenza di nulla, e fu solo grazie all'abitudine di tutta una vita che riuscirono a disperdersi verso gli angoli della stanza, fingendo che il motivo che le aveva spinte fin lì fosse la ricerca di un libro. Eccetto Mrs. Bone. Mrs. Bone sgranò gli occhi, si girò sui tacchi e lasciò la stanza come un vulcano, eruttando lava. Si sentì il corridoio tremare sotto i colpi delle sue falcate in allontanamento e riecheggiare dell'eco adirato delle sue invettive infarcite di parole quali inganno e burla. Con stupore e disgusto, Herr Dremmel osservò le sette signore che si erano lì accumulate. Era una vera disdetta che proprio quella mattina fra tutte il saloncino invariabilmente vuoto dovesse risultare così frequentato. La sua mente inesperta in faccende di cuore non aveva collegato quell'apparizione alle lettere. Non gli era mai nemmeno balenata per la testa l'idea che la sua deduzione sul comportamento delle signore nel ricevere la lettera potesse risultarne errata. E non poteva di certo immaginare, mentre guardava la porta aprirsi per la settima volta e per la settima volta ammettere la donna sbagliata, che la loro presenza, quando Ingeborg fosse apparsa, avrebbe aiutato enormemente il compiersi del suo fidanzamento. Le signore, sfogliando Tauchnisses e riviste polverose, sbirciando il tavolo che si rifletteva nella finestra e fingendo disinteresse e distogliendo lo sguardo, ma solo per quel tanto che non le privava di tale visione, trovarono Trovarono che il disappunto iniziale veniva gradualmente mitigato dalla crescente curiosità riguardo a come avrebbe reagito Herr Dremmel quando avesse realizzato che la poco signorile Miss Bullivan, del tutto inconsapevole di ciò che l'attendeva, non si sarebbe presentata. Ora che erano giunte fin lì, sarebbero rimaste per vedere come sarebbe andata a finire. Era una vicenda molto interessante, a suo modo, e così tedesca, così diversa, grazie a Dio, da quelle tipicamente inglesi. Sarebbe rimasto lì tutto il giorno, si chiesero, accanto a quel dolce dall'aspetto così sfacciato, così simile a una torta di battesimo? Un paio di loro sedettero sui divani, dietro a pile di riviste vecchie di mesi, occhieggiando oltre ad esse e lasciando intendere all'infelice uomo che almeno loro avevano tutte le intenzioni di rimanere con lui. Di tanto in tanto, a turno, producevano un leggero colpetto di tosse, allo stesso modo in cui di solito tossiscono le congregazioni di fedeli raccolti in chiesa per la messa. Poi la porta si spalancò sotto la spinta di qualcuno che pareva trovarsi di fretta o che si fosse risolto a un'improvvisa determinazione. Ed ecco finalmente apparire Miss Bullivan. Un fremito attraversò le sette signore che dietro libri e giornali si irrigidirono per l'eccitazione. Ah, il caso, gli accadimenti fortuiti della vita. E quella ragazza che aveva deciso di affacciarsi alla porta solo per un capriccio del destino, era come in una commedia. Santo cielo, che emozione, pensò ognuna di loro. E Ingeborg, che non più tardi di un attimo prima, fuori sullo zerbino, credeva di essere venuta solo per dire a Herr Dremmel che non poteva accettare, quando vide il dolce, così candido e nuziale, sulla tovaglia immacolata e decorata da vasetti di fiori bianchi, affiancato su un lato da una bottiglia ornata da un nastro bianco attorno al collo e dall'altro, per amore della simmetria, due bicchieri, rimase sconcertata. Lei, che amava così tanto con piacere, come avrebbe potuto ferirlo tanto crudelmente, rovinare la sua festa, appannare l'ardore, diminuire l'immenso sollievo che si irradiava dal suo volto ora che l'aveva vista? Percependo la presenza delle sette signore, si volse nella loro direzione. Le fissò attonita, contandole meccanicamente. Come poteva renderlo ridicolo e umiliarlo davanti a tutte quelle donne? Esitante, dilaniata con l'equilibrio precario di un uccello nel momento in cui spicca il volo, rimase paralizzata sulla soglia. La mano era ancora sulla porta, pronta a riaprirla e battere in ritirata. Ma tale eventualità fu fugata dalla semplicità di Herr Dremmel, che in ultimo risultò aiutarlo più di qualunque astuto piano. Dimenticò le signore e, avanzando verso di lei, le prese la mano e con una naturalezza le baciò la fronte, suggellando in tal modo in quel luogo e in quel momento, con la completa franchezza dei suoi compatrioti quando si cimentano in un legittimo corteggiamento, la promessa di renderla sua moglie. Successivamente lasciò scivolare un anello che portava al mignolo sul pollice di lei, essendo quel dito l'unica porzione di mano che gli riuscì di trovare sul quale fosse possibile infilare un anello, e considerandosi una persona libera da pregiudizi in fatto di dita. Indi si rallegrò che la cosa fosse compiuta. Ingeborg, nel più totale sbalordimento, lasciò che tutto questo le accadesse. Mentre lui si fidanzava con lei, i suoi pensieri sobbalzavano impazziti, finendo annodati in un groviglio inestricabile. Era strabiliata per i trucchi che il destino talvolta si divertiva a giocare. Una torta e gli occhi di sette signore. L'intero suo futuro veniva deciso da una torta e da un manipolo di occhi femminili. Sì, decisamente assurdo. Nemmeno per un attimo aveva pensato di poterlo trovare in altrui compagnia. Ma oramai l'aveva baciata davanti a tutte loro e quelle donne erano testimoni. I suoi metodi erano davvero opprimenti, considerò, e supponendo che suo padre l'avesse mai vista, eppure il bacio era stato del tutto casto, somministrato molto cerimoniosamente, come quello che un vescovo può trovare giustificabile a porre sulla fronte di un infermo o di un bambino piccolo. Più tardi, in un momento più appropriato, quando quel dolce patetico non fosse stato più in vista, quando loro due fossero stati fuori dalla portata d'orecchio di quelle donne, allora gli avrebbe detto che lei non aveva avuto alcuna intenzione. Sorprendentemente si ritrovò ad avanzare verso il dolce al fianco di Herr Dremmel, fino a che mano nella mano lo raggiunsero. Oh, i guai che capitavano alle persone che andavano a Londra per una visita dal dentista. Ora capiva qual era l'utilità dei dentisti di provincia. Ti lasciavano dolorante e il dolore ti teneva lontano dalle grane. Per la prima volta comprese ciò che fino ad allora il suo spirito aveva rifiutato di accettare, quell'insegnamento così caro al vescovo, secondo il quale il dolore è parte integrante della natura delle cose, era evidente. Finché provavi dolore, eri al sicuro. In quelle condizioni ci si poteva tutto al più avvicinare alla più seducente delle tentazioni e osservarla con sofferente disgusto attraverso una cortina di foschia. Così te ne rimanevi a casa, grata delle gentilezze che ti venivano prodigate. Succedeva solo quando si godeva di ottime condizioni di salute che veniva voglia di scappar via dalla famiglia, di andare a Lucerna e di legare con un uomo sconosciuto fino al punto di lasciare che questo si impegnasse a sposarti. Qualcuno alle sue spalle tossì così vicino da farla sobbalzare. Si girò nervosamente mentre Herr Dremel ancora le teneva la mano, vide le sette donne radunate attorno a lei come sette damigelle nuziali. Rapidamente, mentre veniva condotta verso la torta, si erano consultate in bisbigli riguardo all'opportunità di porgere le loro congratulazioni. I loro cuori erano commossi per il contegno rispettoso con il quale Herr Dremel aveva condotto il suo fidanzamento. Il finale della cerimonia aveva avuto la solennità di un matrimonio, e quale donna può assistere a un matrimonio senza commuoversi? Sussurrando, avevano convenuto che si trovavano di fronte a uno di quei momenti in cui bisognava mettere una pietra sul passato. I due presso l'altare, intendevano dire presso la torta, si erano senz'altro comportati in modo assolutamente poco consono a una vera signora e a un vero gentiluomo, esprimendosi con grande maleducazione, e la ragazza aveva persino ammesso di essere fuggita da casa. Ma perlomeno ora nei loro modi non vi era nulla di riprovevole. Forse, sommando quei due elementi, contrariamente a quanto diceva la gente, ne sarebbe potuto venire fuori qualcosa di buono. Ad ogni buon conto, era caritatevole sperarlo. Così si schiarirono la voce e augurarono a Ingeborg ogni bene. Grazie, rispose Ingeborg senza troppa convinzione, spostando lo sguardo da una all'altra. È molto gentile da parte vostra, ma poi strinsero la mano a Herr Dremel e gli dissero che ovviamente auguravano ogni bene anche a lui. Lui le ringraziò osservando ogni dettame di buona creanza, nonché inchinandosi ripetute volte. Non era mai successa una cosa del genere prima d'ora durante un viaggio organizzato, o no, mai in assoluto, ne sono certa, disse la signora più anziana nervosamente, annuendo ripetutamente col capo. Non c'è abbastanza tempo, ecco quello che talvolta penso, disse la giovane donna che la sera prima aveva insistito affinché il compagno di viaggio la scortasse ad ammirare il tramonto. Cos'è mai una settimana? Chiese fissando il dolce e accigliandosi. Ricordo che una volta vi fu un funerale, affermò una donnetta tarchiata che teneva perennemente le mani affondate nelle tasche di una maglia sportiva grigia. Insomma, Miss Jewkes, via, protestò l'anziana signora. Mi sembra fuori luogo menzionare. Ma non fu colpa dell'agenzia, Miss Andrews. Non l'avrebbe mai voluto, ne sono certa. Si trattava di un signore di Gypsy Hill. Che meravigliosa torta! Interruppe frettolosamente la signora anziana. Spesso mi capita di pensare quanto sia bizzarro, continuò Miss Jewkes, andare in vacanza per divertirsi e trovarvi invece la morte. Quelle foglie d'argento, disse la signora anziana alzando la voce, le definirei raffinate. Non trovate che assomigli parecchio a una torta nuziale? Disse la giovane donna del tramonto, scrutandola da vicino con aria afflitta. Ti dispiacerebbe, Ingeborg, disse Herr Dremel, chiamandola per la prima volta con nome di battesimo, tagliare la torta. E forse queste signore ci faranno l'onore di assaggiarla. In quella persistente cerimoniosità Ingeborg faticava a riconoscerlo. Ogni traccia della sua abituale rilassatezza, agio e familiarità nel discorrere erano scomparsi. Era altero, affettato e solenne, come se stesse presenziando una cerimonia per la deposizione di una pietra angolare o per l'inaugurazione di un museo. Benché lei non lo sapesse, si trattava del contegno cui tutti i tedeschi vengono addestrati in vista di pubbliche cerimonie. Oh, grazie! Siete davvero gentili! Tante grazie davvero. Seguì un mormorio di ringraziamenti riluttanti e imbarazzanti. Le sette signore non erano del tutto certe che la loro cordialità avrebbe dovuto spingersi fino a includere la torta. Mosse da un impulso che rendeva onore alla loro umanità di donne, avevano offerto le proprie congratulazioni, ma non per questo avrebbero dimenticato le cose terribili che avevano udito e che erano state il costante argomento di conversazione della coppia, nonché le numerose e inconfutabili prove che indicavano nei due l'essenza di ciò che si soleva definire volgare. E nonostante a tutti piacessero i dolci, oltre al fatto di sentirsi sempre più affamate man mano che l'escursione si avvicinava al termine, nutrivano seri dubbi riguardo al grado di assennatezza sociale che avrebbero dimostrato assaggiandola o meno. Sarebbe stato molto sgradevole se queste persone, una volta incoraggiate, più tardi si sarebbero sentite libere di considerarsi accolte, se avessero così tentato di utilizzare il dolce come arma per forzare il loro inserimento nella società inglese. Per dirla in breve, se avessero preteso lo scambio di visite una volta che la comitiva fosse rientrata in patria. Fu dunque con una certa riluttanza che accettarono le fette di torta tagliate offerte loro da Ingeborg, che si muoveva come sospesa in una sorta di sogno. E fu con ancora maggiore titubanza che sorseggiarono il vino con il quale il gentiluomo tedesco le pregò di brindare alla salute dei novelli promessi sposi. Ma, disse Ingeborg compiendo all'ultimo momento un tentativo di ribellione, è vero, non ci sono bicchieri a sufficienza, suonerò finché ne portino degli altri, disse Herr Dremmel finendo la frase al suo posto. La sua smisurata padronanza nella conduzione di quella cerimonia ufficiale lasciò Ingeborg senza parole. All'arrivo dei bicchieri seguì il brindisi di rito, il tintinnio del cristallo di Herr Dremmel contro i cristalli di tutti i presenti, i talloni uniti a ricordo dei giorni in cui aveva prestato servizio nell'esercito e il viso composto in un'apoteosi di solennità. Prima di accostare le labbra al calice che teneva ben alto davanti a sé, pronunciò un discorso di ringraziamento alle signore presenti per i calorosi auguri a nome della sua fidanzata, Miss Ingeborg Balliva, di cui proclamò a lungo ogni singola virtù, con frasi altisonanti, prima di rassicurare ognuno riguardo il suo fermo proponimento di provare, attraverso la devozione per tutto il resto della sua vita, la misura della sua gratitudine per la straordinaria dimostrazione di fiducia che le aveva dato davanti a tutte loro. E ogni nuova frase sembrava porre un ulteriore e più gravoso sigillo su di lei quale creatura ineluttabilmente destinata a sposarlo. Iniziò a comprendere vagamente la somiglianza tra una morsa d'acciaio e un fidanzamento tedesco. Si chiese se sulla sua fronte restasse ancora un po' di spazio libero per la posizione di nuovi sigilli. Aveva infatti l'impressione che fosse imbrattata da grandi timbri rossi recanti l'iscrizione Proprietà di Dremmel. Si disse che comunque lei non era un pacco smarrito a disposizione della prima persona che lo trovava giacente in qualche angolo e che non appena fosse stata sola con lui, gli avrebbe detto, doveva assolutamente farlo, anche se si rendeva conto che oramai le apparenze erano decisamente contro di lei, che il vero motivo per cui era entrata in salotto era comunicargli il suo rifiuto. Sarebbe stata il più gentile possibile, ma anche chiara e determinata. Non appena quelle donne se ne fossero andate, gli avrebbe parlato. Con un sussulto si rese conto che le signore presero a congedarsi e che il momento stava arrivando. Non voleva che se ne andassero, le avrebbe trattenute a ogni costo. Compì persino un passo nella loro direzione dopo che l'ultima, annuendo sino alla fine, fu uscita ed ebbe chiuso la porta. Ma Herr Dremmel continuava a spingerle la mano con una presa che non accennava ad allentarsi. Non appena rimasero soli nella stanza, Ingeborg si girò verso di lui. Teneva la testa ben alta, con un piglio fiero, e i suoi occhi erano colmi di coraggio e risolutezza. Sentite, esordì ferma nel suo proposito di sgomberare il campo da malintesi per quanto potesse far male a entrambi. E di nuovo egli, senza alcun indugio, finì la frase per lei, ma questa volta cingendola con le braccia e baciandola con tale intensità e trasporto che nessun vescovo, pensò la sua mente in un baleno, mentre il corpo le si irrigidiva per la sorpresa e l'orrore, avrebbe mai potuto approvare. Si sentì così fagocitata, poi sentì tutto il suo essere venire risucchiato. Il suo abbraccio sembrava infinitamente capace e morbido. Ma io non posso, no, basta, basta. Si tratta di un errore, tentò di pronunciare tra un ansito e l'altro. Mogliettina mia, fu tutto ciò che Herr Dremmel le offrì in risposta.